storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. Perché è la gente che fa la storia, Arfre. E sì, te lo dice tuo padre, tu ci devi da credere. E la gente, tu, la riconosci dall'occhi. L'occhi di tua madre la prima volta che mi ha guardato. Ah, oh, c'aveva l'occhi verdi, che a seconda della luce cambiavano colore. L'occhi buciardi che abbassano lo sguardo. L'occhi tu la prima volta che ti ho portato al mare. Mi sei scappato di mano e ti sei buttato dentro l'acqua tutto vestito e c'avevi l'occhi che te ridevano, Arfre, te ridevano. E l'occhi di quel ragazzo, quello che hanno ammazzato qui davanti. E chi si può scordare? Io ce l'ho qui, tutti i giorni dal 1975. Gli occhi di Piero. Erano anni che se non l'hai vissuti, vabbè, se non l'hai vissuti non li puoi capire. La gente viveva per la strada si moriva pure, sì, è vero, ma era come se fossimo tutti fratelli e sorelle. Quello che succedeva a uno succedeva a tutti. E in giro c'era una strana felicità. No, come a voi oggi che ve lo dite sempre al culo. Oh! Vero da sempre al culo c'avete tutto e sembra sempre che va manca qualcosa. In quegli anni se scendeva in piazza un po' per tutto. Se scendeva in piazza per fa l'autoriduzione delle bollette. Se scendeva in piazza, ma per no perché volevamo comandà, ma perché volevamo veramente cambiare le cose. Nel 1975, Arfre, si scendeva in piazza perché lo Zaire e il Sudafrica avevano appena liberato l'Angola che si era appena occupato l'Angola che si era appena liberata dal Portogallo, Arfre, erano anni diversi. Se scendeva in piazza perché noi ci credevamo. Se scendeva in piazza perché la politica era una cosa seria. Se scendeva in piazza perché c'erano i fascisti e c'erano i comunisti. Se scendeva in piazza perché le bandiere erano a colori, ma la televisione no. La televisione era in bianco e nero. Oggi che la televisione è a colori, le bandiere si sono scolorite. Se scendeva in piazza perché la piazza era l'unica salvezza. Se scendeva in piazza perché in piazza nessuno era solo. E se scendeva in piazza, Alfre, ma perché a casa che cazzo ci stavamo a fa? Quell'anno era cominciato male. Male, male, troppi morti in giro. Stavamo in guerra, ma una guerra che nessuno ci aveva dichiarato. E nella guerra, ricordate, nella guerra muoiono sempre gli innocenti. 21 maggio 1975 il Parlamento italiano ha approvato a larga maggioranza la legge reale. Essa accresce notevolmente i poteri delle forze dell'ordine. La cosiddetta legge reale, dal nome del ministro che l'ha redatta, il repubblicano Ronzo Reale, è stata approvata a larga maggioranza con l'appoggio del Partito Comunista. Hai capito sì che dice la radio? E questi manco la possono di tutta, perché da quel giorno, ascolta tuo padre, se da quel giorno un poliziotto presumeva che tu eri armato, quindi lui presumeva che tu gli avresti potuto fare del male, ecco, lui molto democraticamente te poteva sparare e tu altrettanto molto democraticamente potevi morire. Risultati parziali delle elezioni comunali. Il Partito Comunista si aggiudica Napoli, Milano, Torino e Genova. Ah no, perché ridono, scusa, stavo pensando a tua madre a quell'anni. Perché? No, perché, oh, tu lo sai, io e mamma ne avevamo mai litigato, mai, tant'anni che stiamo insieme, avessimo discusso una volta. Beh, quell'anno perché t'andiamo a discutere? Per la politica. Ma io dico, se può essere più fregnoni, se può discutere per una cosa più inutile. Perché, come perché? Tu lo sai benissimo, lei votava Democrazia Cristiana e io ho sempre votato Partito Comunista. Beh, quell'anno mi ritorno a casa una domenica tutta infervorata, mi comincia a fare: Agustà, devi stare attento, perché a quelli come te, a voi rossi, ve scomunichino, non ve fanno entrare in paradiso. Ma io dico, no? Ma può essere credibile una cosa del genere? Ma poi tu me ne immagini a me che va dall'altra parte da San Pietro? Che poi voglio dire, con San Pietro siamo pure colleghi. Come, perché? Ma scusa, San Pietro è o non è il portiere del paradiso? Me ne immagini, vado dall'altra parte e lui mi fa a me, San Pietro a me mi fa: no, Sor Gustà, mi dispiace, ma i rossi, a voi rossi, te qua invece volemo. Ma può essere credibile una cosa del genere? Ma io dico, ma può essere credibile una cosa del genere? Che i santi stanno per aria, ma le chiese l'hanno costruite per terra. Quell'estate, l'estate del 75, faceva caldo, caldo, caldissimo. Non riuscivo a riposare di notte, non dormivo. Te venivo a controllare 3 o 4 volte. E come, perché a papà? Perché? Perché le storie brutte, le storie quelle brutte che succedono quando sono lontane, te fanno male. Ma quando poi quelle storie si avvicinano a casa tua, non fanno più male. Fanno paura. E i parioli stanno qui dietro. I parioli, dove andavi a studiare a te da quell'amici tua che mi tornavi a casa tutto infervorato? Ah papà, c'hanno 2 cucine, ma non ce cucinano, c'hanno una di colore che gli fa tutto, e il portiere ce l'hanno? Ce n'hanno 2. Ecco, era da là, dove pure i portieri erano doppi, che venivano Andrea Ghira, Angelo Izzo e Giovanni Guido, i ragazzi della Roma Bene l'hanno chiamati. Ma quale Roma Bene? Oh! La Roma Bene è quella che lavora, no, questi che fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Dice, vabbè, ma si annoiavano. Ah, annoiate, e venite qua che vi faccio divertire a carci in culo, stizzozzi. Hanno preso 2 ragazze con l'inganno, gli hanno detto che le portavano a una festa al Circeo. L'hanno seviziate, stuprate e massacrate per 36 ore. Rosaria Lopez e Donatella Colasanti si sono fermati solo perché erano convinti di averle ammazzate. 17 anni c'aveva Rosaria, che c'aveva l'occhio che c'hanno le ragazze a 17 anni, che se tu le guardi bene ci vedi tutto il mondo dentro. Ma con Donatella no, con Donatella non c'erano riusciti. Si è svegliata al buio dentro un sacco della monnezza, non ha manco capito se quello era l'inferno o il paradiso, e si è messa a chiedere aiuto. La guardia giurata che passava da quelle parti ha aperto il bagagliaio e ha visto l'occhi di Donatella. E a Donatella quegli occhi devono essere sembrati i più belli del mondo, perché dentro c'era la vita. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buongiorno, sono Adrià. Ma che? Ah, siete tornati oggi, siete tornati. Ah, mi fa piacere. Ma non dovevate. Ma il limoncello, grazie. Ah, questo lo fate, questo non è fatto che cartine, eh? Qualsiasi cosa mi serve a disposizione, eh? Salve. Alfred, tieni, guarda. Tuo padre è un signore. A me poi sto mestiere, ti devo dire la verità, a me far portiere mi piace. Ah, perché la gente mi fa ammazzare dalle risate. Che poi se ci pensi bene pure questa farite. Come quale? Oh, ammazzata dalle risate. Ma perché tu hai mai visto uno che è morto a ride? È che noi romani siamo così. A noi romani ci piace sta cosa. Questi detti, i detti romani sono belli. Allora, un romano, no? Allora, un romano che incontra un amico suo. Ma un amico suo, la vita sua, il cuore suo, proprio che gli vuoi bene, ma non lo vedi da vent'anni. Qual è la prima cosa che un romano dice a un amico suo che non vede da vent'anni? Ma l'anima degli mortacci! Che se ci pensi non è una cosa carina. Oppure tuo fratello, che ne so, dice... Dice, oh, per arrivare a casa tua, al via Ludovico Muratori, dall'Euro ci ho messo 5 minuti. Ah, frate, ma vattela a piander... Che non è una cosa bella, però fa ridere, a me mi piace. Ah, a proposito, ma te la ricordi tu la signora Pagnolfi? Quella del terzo piano, che se bardava, che faceva le poste al marito perché ci aveva paura che il marito ci aveva l'amante. E poi t'ha appizzicato con l'amante, sì? Ma mica era una donna, no? Era Otello, l'idraulico della Merulana. Oh, anche noi stiamo tutti... Eppure quell'altra. Ti ricordi la sola Iside? Ah, Zitella, quella del quinto piano. Che quella, secondo me, ha fatto amore pure con Garibaldi. Una volta, Don Vincenzo, erano le feste di Pasqua, era venuto per fare benedizioni, scegnendo scappò con la sottana per aria perché mi disse, a Sor Gustà, ma con tutta la gente che c'è sta al mondo, il signore a me, ma proprio sta Befana mi doveva mannare. Aspetta che assaggi il limoncello. Dai, tuo padre è un signore. A proposito, Alfred, ma tu la conosci la storia di Pasquino? Ma che sai? Ma tu voglio sapere che sai? Hai fatto il giro del mondo e te perdi dentro a casa tua. Allora ascolta tuo padre. E il papa stava a fare i lavori a casa. Mo, scava, che te scava, che te scava. Trovò un torso di statua, ma un torso, quindi senza gambe, senza braccia. Dice, vabbè, ma mo che ce famo? Dice, come che ce famo? Siamo a Roma, pure sia un torso, lo mettiamo là, famo il monumento, ce famo bella figura. Solo che con quella statua non ci avevano fatto bene i conti. Loro pensavano che era un torso di statua morto, e invece no, quella statua è diventata la voce di Roma, Pasquino. Che a Roma ci hanno sempre provato poi a chiudere le voci scomode, ma non ci sono mai riusciti. Come quel 2 novembre del 1975, una signora stava a fare le pulizie fuori dalla barchetta sua, ma pulisci che te pulisci, trovò un torso di stracci. Ma un torso, così, dice, ma che sarà? Mi toccherà andarla a pulire. Prese la scopa e... Oddio, ma è un cristiano. No, non è un cristiano. È Pasolini. Morto. A Roma. Anzi, manco a Roma. A Ostia. Anzi, manco a Ostia. A Fiumicino. Anzi, no, all'Idroscalo. Solo pure che con Pasolini non ci avevano fatto bene i conti, che gli occhi di Pasolini sto mondo lo guardano ancora. Che ci sono due categorie di persone a Roma che non gli puoi chiudere la bocca, che so la gente e so i poeti. E poi sono vecchia, c'ho 30 anni. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da una dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. la viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri con la più strana indifferenza. Io muoio ed anche questo mi nuoce. Da quel giorno non dormivo proprio più. Facevo l'incubi, uno ricorrente. Menzognavo la morte che mi rincorreva intorno al Colosseo. Poi mi sognai mio padre. Tuo nonno, sì, che era morto un anno prima che nascessi. Che mi prendeva in mano e mi portava dentro una stanza dove ci stavano quattro morti su una bara. Quella mattina faceva freddo. Il vento faceva muovere pure i lampioni. Le frone degli alberi che coprivano la luce facevano sembrare la bigana spettrale. Pareva di stare dentro un incubo. La prima mattina è cominciato ad arrivare un sacco di polizia, carabinieri, boh. Un gruppo si è fermato sulla piazzetta che sta qui a 100 metri dove ci sono i palazzi belli. Un altro gruppo si è infrattato lungo via della Domus Aurea, quella che è la via con le scalette che sta qui a 50 metri da casa. Altri stavano qui davanti che fumavano, scherzavano, ma io non capivo. Agati! Agati, chiudi tutto, Non uscite casa che qui c'è un'aria che non mi piace! E ti addocchio pure al pupo che io non lo so mica che sta a succedere. Poi a un certo punto ho sentito come un sacco di voci, di gente, un fiume di gente che stava a scenne da dietro ai palazzi, come se da via Merulana stavano a venire da ste parti. E allora ho detto, qui mi tocca andare a leggere sul giornale. Agati, vi ha sentito? C'è scritto che la sinistra extraparlamentare ha indetto una manifestazione per il riconoscimento della Repubblica Popolare dell'Angola contro lo Zaire. Ma allora questi stanno a venire qua? Come, perché stanno a venire qua? Agati, è il palazzo dello Zaire, il palazzetto quello che sta qui a 100 metri. Poi ho sentito i poliziotti e i carabinieri che strillavano, eccoli, eccoli, eccoli. Come si stavano aspettando qualcuno, come si avessero programmato qualcosa. Alfred, avevano programmato tutto. Dall'imbocco della strada sono saliti un gruppetto di ragazzi, ma saranno stati meno di una ventina o non hanno fatto un tempo manco a mettere il naso sulla strada che sono stati travolti da una marea di proiettili. Agati, chiudi tutto che ci stanno a sparare, ci stanno a sparare. Tre di loro, per coprire la fuga degli altri, si staccano, tirano qualche sasso e una bomba Molotov, ma quelli gli sparano addosso. Ma che cazzo ve sparate? Ma che ve sparate? Due feriti alla testa riescono a scappare, ma uno no. Piero l'avevano centrato, stava qua davanti, si contorceva, si muoveva, ma io che potevo fare? Che potevo fare? Ragazzi, che te senti? Che te senti? Non mi sento più le gambe! Non mi sento più le gambe! Un amico suo si è staccato per dargli una mano, ma quelli gli sparano ancora, ma che cazzo ve sparate? Li beccano a tutti e due, l'amico suo lo beccano un braccio e Piero l'hanno ribeccata una gamba. Poi arrivano due poliziotti, uno in borghese c'ha la pistola a mano. A polizio, dagli una mano, scendi te se sei capace, vecchio, e viaggi te se sei capace. Quello gli punta la pistola in testa, io t'ammazzo, infame, cane, bastardo, no! La pistola era scarica, ma t'ammazzerei per davvero, infame, a bastardo, io t'ammazzerei per davvero. Poi lo girano, lo strattonano, ma che stanno a fa'? Mica lo portano via. Lo rivoltano per far vedere che gli avevano sparato al petto mentre attaccava. Invece no, l'avevano presa la schiena mentre che scappava. Poi sono venuti un male dei poliziotti e dei carabinieri per pulire sta strada da un tappeto dei bossoli. È morto il giorno dopo, al San Giovanni. Ma a me come se mi fosse morto un braccio, perché quando stava là per terra io me lo sarei preso e me lo sarei messo qua sulle gambe e gli avrei detto no, Piero, non ti preoccupare, ma Piero, non ti preoccupare che passa, ma Piero, sta tranquillo, fa male, sì, fa male, ma poi passa, non ti preoccupare, Piero, papà, vieni qua, non ti preoccupare, vieni qua. Qua ci pensa papà. E io quell'occhi, io quell'occhi non me li posso più scordare. Ce l'ho qui davanti tutti i giorni. E io quell'occhi l'ho sempre visti dentro ai tuoi. La prima volta che ti ho portato al mare, mi sei scappato di mano e ti sei buttato dentro l'acqua tutto vestito. E c'avevi gli occhi che ti ridevano, Alfredo, come ti ridevano. La prima volta che eri innamorato, ma non dicevi niente. L'ho visti quando ti sei buttato dentro i libri a studiare e papà e mamma erano orgogliosi di te. L'ho visti quella sera quando è morto Piero. Che piagnevi, c'avevi paura. Ti sono venuto a prendere dentro al letto e mi ti sono messo stretto qua forte, forte, forte, forte, forte. No, no, no, no, papà, non ti preoccupare. Vieni qua, papà, non ti preoccupare che passa. Ah, papà, vieni qua che passa tutto, non ti preoccupare. No, no, no. Ninna nanna, nanna ninna, il pupetto vola zinna. Fa la ninna, dormi, sogna, che se dormi non vedrai tanti infami e tanti guai. Che succedono nel mondo tra le bombe e i fucili, dei popoli civili, ninna nanna tu non senti, li sospiri, li lamenti, della gente che si scanna e che si ammazza a favore di una razza o a vantaggio di una fede, per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo, a re macellaro che sa bene che la guerra è un gran giro dei quadrini che prepara le risorse per i ladri delle borse, fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello, fa la ninna che domani rivedremo i sovrani che se scambi. Pieno la stima, buoni amici, più di prima. So cugini e fra parenti, non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali i rapporti personali, senza l'ombra di rimorso. Sai che bel discorso ci faranno tutti insieme, sulla pace e sul lavoro, per sto popolo coglione, risparmiato dal cannone. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. Oggi è domenica. E la domenica è un giorno particolare. Perché la domenica io ricordo. Perché la memoria è una bella cosa. La memoria è una cosa importante. Ecca. Una domenica buttata. Ah, l'altro giorno, che non era domenica, è venuta una ragazzetta, ma bionda bionda, bassa bassa. Oh, talmente bassa che un altro po' neanche la riconoscevo. Mi ha detto, mi scusi, ma è tutto vero quello che mi ha raccontato? Io l'ho guardata negli occhi e gli ho detto, signori, Piero Bruno è un ragazzo che c'ha sempre 17 anni. Mio fratello è figlio unico perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato. E non ha mai pagato per fare l'amore, e non ha mai vinto un premio aziendale, e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. Può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che si sono andati fratello e figlio.